Carlo, che pure faceva il punto egregiamente sulla ricerca italiana degli ultimi 25 anni, proprio perché lo faceva in maniera molto bella, la ricerca sul tasso medioevo e sulla prima età moderna, non ha toccato, secondo me, essenzialmente un problema centrale, che cioè, insistito molto, ma insomma, secondo me il problema è questo, quando parliamo di Stato moderno, usiamo un concetto moderno nel senso di ottocentesco, ma se forse non state vedendo anche questa mattina, mi semplifico molto, che nella ricerca storica è servito e serve anche da chi lo nega, e non paradossalmente, per costruire ipotesi indispensabili sulle cose che si osservano con l'attività empirica dell'indagine sulle fonti, ma ipotesi che vanno specificate come tali e non scambiate per la realtà. Queste osservazioni, che sono prodotte da una certa consuetudine con la storia dei concetti, e nonostante quello che è stato detto stamattina da Piero, cioè sulla ormai tendenziale autoreferenzialità, però, come dire, quello che è stato fatto ormai da parecchi decenni è molto importante, e in Italia non è stato fatto, e che nascono dalla mia attività di ricerca come modernista, qui certamente ci sono i limiti, come dire, dell'impostazione che io posso dare, mi sono state anche sollecitate dalla necessità di riprendere un'iniziativa che l'Istituto si occupa, aveva intrapreso qualche anno fa e che però proprio sulla questione del moderno e della modernità si era un po' barenata, credo, e mi riferisco alla serie di seminari sui concetti realizzanti dell'Ottocento in Italia internazionale. L'idea quindi alla base di questo seminario è quella di riproporre le problematiche che sono state allora alla base delle riflessioni e di portarle avanti, perché ora a mio parere, alla fine, come dire, del secondo millennio, non si può più fare storia senza ragionare, nel momento stesso in cui pratichiamo la ricerca e ancora di più quando la poniamo poi alla discussione, quegli strumenti che non possiamo fare a meno di usare, se ne rendiamo conto bene, quando leggiamo il passato più o meno remoto. E questo nonostante che un problema a campo moderno nell'ultimo decennio ci siano organizzati una serie di convegni, anche quelli della European Science Foundation, che però da questo punto di vista non sono andati molto a fondo. Per il nostro modo di fare storia, gli uomini della fine del Novecento, l'Ottocento è oggetto di riflessioni irrinunciabili, ripeto, questa mattina c'è stato un eccezionale esempio di questo. Soprattutto, ma non solo, credo, per chi si occupa della dimensione politica dell'agire umano. E su questo, sull'Ottocento, con il secolo della storia, sulla intima connessione di storia e politica, ci sono appunto i seminari qualche anno fa. Se dunque all'origine della progettazione di questo seminario c'era il tentativo di affrontare quella che è stata anche da altri considerata una aporia di Chicago, ora il seminario si può forse proporre come qualcosa di relativamente autonomo, proprio per spingere, per così dire, gli storici medievali e moderni proiettare la necessità indispensabile, per me almeno, di fare chiarezza sul concetto usato, sulla loro storia, e anche, e qui, come dire, vado in campo, ad esempio, contemporaneista, ma quello che sta succedendo nella storiografia contemporaneistica, quindi mi sono detto da farlo, per invitare la contemporaneistica, nel senso più strettamente accademico disciplinare, a trarre fino in fondo consapevolmente le conseguenze delle loro riflessioni su questo secolo come secolo breve, talmente veloce da non aver dato tempo e modo alla contemporaneistica molte volte di vedere quanto complesso e articolato, più che lungo, oltre che lungo, fosse stato l'Ottocento, in un modo stamattina lo abbiamo detto secondo l'Inter è molto opportuno, insomma, molto pertinente, e quindi da non averli messi in grado di accorgersi fino in fondo che l'attualissimo presente è l'esplosione di un passato non secolare. Il tema proposto per il seminario è una parte, e per noi è rilevante, di quelli che oggi sono molto alla moda tra i contemporaneisti, patria, nazione, tutti i temi, insomma, ma che, secondo me per fortuna, difficilmente si presta ad essere occasione per la coltivazione di molto presentismo e anche di molto posto storiografico, insomma, che spesso no, c'è intorno a questi ultimi tempi. E quindi quelli che si verranno discussi in questi giorni non sono temi che possano essere appunto sfruttati in questo senso. Si tratta, secondo me, di riflettere sul modo di riportare l'espressione Stato moderno a quello che dovrebbe rappresentare per chi è storico, cioè nella considerazione appunto di riflettere sull'elaborazione concettuale che non può più essere sottintesa, celata nella trama dei fatti, e qui cito dal messaggio di qualche anno fa, ma anche di 12 anni fa, di Mauro Moretti su Chabot, come poteva essere ancora con Chabot, non può essere più, secondo me, qualcosa che si sottende, proprio per tutte le discussioni e le diatribe storiografiche che ha suscitato. D'altra parte, credo che Stato moderno di oggi può essere un concetto che ispira la ricerca sul passato con caratteristiche esattamente contrarie a quelle di 70 anni fa. Allora il problema non è quello di non parlare di Stato moderno, il tema, questo problema non è un falso problema, tant'è vero che qualcuno me lo può confermare, la settimana scorsa San Miniato in un seminario sul problema dello Stato territoriale fiorentino il tema si è ripresentato. Qualcuno ha sostenuto, come dire, la necessità di fare funerale al concetto, il problema esiste, cioè non si può negare, che sia poi più o meno ben importato è un'altra questione. Il problema è in quanto tale che esiste. Allora, non è di non parlare di Stato moderno o di fare un funerale, come si è stato detto recentemente, ma di capire in che senso è stato usato. Perché ogni ricerca storica sulla dimensione politica, ma anche più generalmente economico-sociale, per molto tempo non ne ha potuto fare a meno, quali contenuti che gli sono stati dati non sempre uguali, di nuovo mi riferisco a stamattina, in tutta la riflessione in generale sulla presentazione del docente, eccetera, eccetera. E credo tra l'altro che oggi abbiamo la fortuna, per certi aspetti, di avere un'efficacissima prova del nome per capire la natura e la spendibilità molteplice di questo concetto. Cioè, che cosa facciamo adesso che non c'è più praticamente, credo, alcun politologo a identificare le caratteristiche di modernità di uno Stato e tantomeno a proporre come fine dell'azione politica nella costruzione di una burocrazia, di un apparato centralizzato, eccetera, eccetera. Oggi lo Stato, per essere moderno, deve essere meno burocratico, meno accentrato, deve essere leggero, deve rispettare i diritti degli uomini di cittadinanza e non deve affidare le sue sorti e le sue teorizzazioni ad una cattiva ragione. Per questo credo che nonostante tutto si debba comunque continuare a parlare in questi termini, proprio perché è un concetto che ha ispirato e orientato. E qui veramente le mie scarsissime riflessioni si fermano, perché ritengo che non solo per dare spazio a chi veramente andrà, comincerà ad affrontare problemi, ma perché soprattutto durante queste due giornate credo che dobbiamo pensare anche al futuro, perché secondo me un seminario come questo ha senso solo se viene un processo di ricerca di lunga scadenza, magari con verifiche interventi, ma proprio un progetto di lunga scadenza. E avrei molto piacere, non lo dico diciamo con una forma di egoismo, ma perché non mi assumo tutta la responsabilità del caso, che questa prospettiva sia presente oggi e domani. Anche perché c'è un problema operativo, cioè io avrei intenzione, se naturalmente chi è presente d'accordo con la continuazione della ricerca, a presentare una domanda di finanziamento al CNR nel settore progetti triennali e pensavo che fosse la fine di giugno, come l'anno scorso, invece per fortuna è la fine di luglio, quindi c'è qualche tempo in più e quindi c'è anche più tempo, diciamo, per mettere insieme anche la, le varie situazioni. Questa sarebbe la mia, cioè quello che secondo me è necessario, ma appunto si tratta di verificarlo. Un'ultimissima cosa, ci sono alcune assenze, appunto il professor Prodi, che quindi come dire che è passacane, il testimone a queste assenze, ha un passacane, non è che potuto dire per altri impegni che si sono sopraggiunti, qualcosa è successo per altri. Devo dire, l'ho già detto a qualcuno, diciamo, di sede privato, di un'assenza mi devo assumere totalmente la colpa, perché mi è caduta l'attenzione nella trascrizione del programma, e si tratta di una assenza, cioè di una mancanza di attenzione mia, che è causata un'assenza veramente molto, molto grossa, insomma, che sentiremo molto, perché mi è caduto proprio per errore, per disattenzione, nella trascrizione dal vecchio programma a quello nuovo il nome di Pietro Costa, e non solo non dico niente, ma ricordo delle persone che hanno partecipato ovviamente al primo seminario, e purtroppo quando mi sono accorta di questa cosa molto tardi, Pietro Costa aveva appena preso un impegno per questi giorni, e vabbè, insomma, lo devo ammettere, è stata proprio una colpa bella. E per ultimissima cosa, devo naturalmente ringraziare il direttore dell'istituto, Paolo Prodi, che non solo ci ospita oggi, ma che ha accolto questo progetto fra quelli interni dell'istituto, e solo per questo, perché l'istituto finanzia, è stato possibile fare questo seminario, perché pur avendo fatto una richiesta al CNR, ho saputo solo ieri che il finanziamento che il CNR ha concesso per questo seminario, che avevo così in maniera molto, direi, puntuale, è stato di 3 milioni, e quindi diciamo che tutto ciò non sarebbe stato possibile. E con questo io ho, come dire, concludo la mia introduzione.